con Gabriele dell'ex caserma occupata di Livorno per presentare la quarta edizione del Festival del Libro il 25 e 26 settembre 2021. Ben trovato! Ciao, buonasera a tutte e tutte. Raccontiamo come nasce questo festival. L'iniziativa è nata dall'esigenza di voler portare certe case editrici a tema politico, a tema sociale, nella nostra città, tutte insieme, in modo da dare la possibilità alle persone di venire qui da noi e di trovare, donate tutte insieme, tutte queste pubblicazioni. Non l'abbiamo fatta tutti gli anni consecutivamente, però ce l'abbiamo fatta arrivare alla quarta edizione. Il festival ha sempre proposto punti vendita delle case editrici, che nel concreto sono la Eris, la Lemilier, Mimesis, Melteni, Juvens, Red Star Press, Zero in Condotta, Pi Greco, FQ, Agenzia X, Allegre, Rosenberg e Seller e Eleutera. E parallelamente a questo abbiamo sempre inserito dibattiti e presentazioni di libri in compagnia degli autori. Come sono strutturate le due giornate? Iniziamo sabato 25, verso le 5 del pomeriggio apriamo lo spazio, apre il festival con i banchetti delle case editrici, oltre a banchetti di artigianato, di musica, in concreto vinili, di vestiti usati. Alle 5:30 partiamo con la prima presentazione, dal titolo Dalla Grecia alla rotta balcanica, esperienza di solidarietà tra e con migranti. Praticamente due compagni del collettivo anarchico libertario che sono Giacomo Sini e Dario Antonelli, giornalisti, ci fanno un reportage su quello che è stato il loro viaggio sui campi di Corfu qui in Grecia. Mentre invece alle 7 c'è la presentazione del libro E allora le foibe, di Eric Govetti, editore La Terza, in compagnia per l'appunto dell'autore. Abbiamo poi la sera la nostra scena, in concreto una pizzata, perché all'interno del caserma occupata è presente un collettivo che gestisce un forno a legna e si occupa di fare pizzate per finanziare la nostra cassa di resistenza per i nostri infiniti processi. E alle 10 invece abbiamo un concerto live, abbiamo il gruppo livornese Villa Sound e i Barre a 360, è un concerto rap. Nel nostro parere il rap e la letteratura sono due cose che vanno unite, la prosa rap e la prosa letteraria. Mentre invece domenica 26 abbiamo nuovamente alle 5, alle 6:30 presentiamo il libro Il bisturi alla spada, la storia di Norman Bethune, e abbiamo invitato Cristiano Amati, un giornalista e fondatore di Red Star Press, e Daniele Marella dell'associazione Italia Cuba. Alle 8 poi abbiamo una cena, sempre benefit per cassa di resistenza, tra l'altro per il menu e prenotazioni sulla nostra pagina Facebook trovate e su Instagram tutte le informazioni, mentre invece alle 9:30 abbiamo la presentazione e proiezione, questa volta non di un libro ma di un documentario, dal titolo La Francia Verde, auto-organizzarsi in tempi d'emergenza. Interverranno Ferdinando Amato, regista, e Giulia Tonelli. Oltre a queste presentazioni, ricordo che saranno presenti durante tutto il festival i banchetti delle case editrici, perché avremo fumettisti di militanza grafica a presentarci i loro lavori. Abbiamo il banchetto di Ipquasi, che è un collettivo antispecista. Abbiamo Zero Zen, che è un'azienda agricola biologica, e il collettivo anarchico libertario con il suo materiale informativo. Ti racconti anche un po' della situazione dell'ex caserma occupata? Lo spazio dell'ex caserma occupata quest'anno ottobre compirà i 10 anni di occupazione e all'interno sono attivi molti collettivi. Le cose qui vanno che dopo la pandemia, il Covid, siamo dovuti stare chiusi molto tempo, questo ci ha penalizzato a livello di partecipazione esterna. E ora da quest'estate piano piano siamo riusciti a riaprire e speriamo di poter svolgere tutte le nostre attività regolarmente d'ora in poi. Ci dai tutti i riferimenti web per seguire il programma e anche le attività dell'ex caserma? Per quanto riguarda internet siamo presenti sia su Facebook che su Instagram, sulle pagine di Ex Caserma Occupata, dove oltre alle altre attività troverete il programma più dettagliato del Festival del Libro. E potete prenotarvi per la cena di domenica e anche per, se venite da fuori Livorno, per i posti migliori dove parcheggiare per non prendere le multe più avanti. quarta edizione del Festival del Libro a Livorno, all'ex caserma occupata, 25 e 26 settembre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Gabriele. Un in bocca anche al lupo. Noi vorremmo ringraziare la Bionda Rossa per l'interessamento al festival, per darci la possibilità di farci conoscere anche fuori della nostra regione, e complimenti da parte dell'Assemblea di Accademia Occupata per quello che è il vostro lavoro e da molti anni fa del bene. Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Michelangelo Frammartino, regista del film Il Buco, al cinema da giovedì 23 settembre 2021. Ben ritrovato Michelangelo. Grazie, grazie mille, grazie. Per chi ci ascolta, come lo racconteresti in breve? Io ti posso dire che spero che per chi vorrà vederlo, per chi andrà in sala a vederlo, questo è molto importante, possa essere un'esperienza di immersione e di esplorazione. Quindi al di là del racconto che c'è nel film, che è un'avventura speleologica realmente accaduta in Calabria nei primi anni 60. Noi abbiamo realizzato il film perché potesse essere anche un'avventura e un'immersione per lo spettatore, nel senso che la speleologia prevede un collettivo, in particolare allora, nei primi anni 60 si esplorava così, si scendeva nelle viscere della terra come una squadra, ci si immergeva nel buio con il fascio di luce sui caschi e lo spettatore cinematografico in una sala, gli spettatori sono un collettivo che sprofonda nel buio e con questo fascio luminoso che li guida. Quindi io spero che sia un'esperienza diretta, ecco, non mediata dalla narrazione, ma una vera esperienza per lo spettatore. Com'è nato tutto? Senza che me ne accorgessi, perché mentre lavoravo al film precedente, ormai parecchi anni fa, si titolava Le Quattro Volte, quel film mi portava sul Pollino. Eravamo sentiti anche in quell'occasione. Sì, Federico, ci eravamo già sentiti in quell'occasione. Quel film era girato sul massiccio del Pollino, al confine tra Calabria e Basilicata, e in quell'occasione un caro amico, Nino La Rocca, che era sindaco di Alessandria, il paese dove facevamo base, lui è un grande speleologo calabrese, ma io non lo sapevo allora, devo dire che ignoravo molto della vita sotterranea e delle esplorazioni sotterranee. Lui insistette per farmi vedere una serie di cose, Madonna delle Armi, che è un monastero meraviglioso a Cerchiara, il Canyon del Raganello, insomma, teneva a farmi vedere il territorio al quale era ed è così tanto legato, e a un certo punto mi fece vedere, anzi, come prima tappa del tour, mi fece vedere uno squarcio nel terreno, che appunto è l'inghiottitoio, no? L'ingresso dell'abisso del Bifurto. Io guardai questa cosa con un po' di stupore, nel senso che per me era un buco, ecco, e nient'altro, e Nino a un certo punto, per farmi capire qualcosa in più, afferrò una pietra, un grosso sasso, e lo lanciò all'interno, e questo sasso scomparve nel nulla senza far rumore, no? E sentii solo un toc arrivare al mio orecchio 4-5 secondi dopo. Ecco, evidentemente questo fuori sync, questo ritardo di suono, ha lavorato, perché insomma molti anni dopo quel luogo, con mia sorpresa all'inizio, è diventato il set di questo film, insomma. Ecco, a partire da questa memoria esperienziale, come hai deciso di mettere in scena questa storia? Quell'input ha scavato qualcosa così a mia insaputa, e poi anni dopo ho cominciato a incuriosirmi veramente rispetto a questo buio, al buio del sottosuolo. Ho cominciato a pensare che, nonostante le apparenze, potesse essere un buon luogo per la macchina da presa, e quindi ho cominciato a ragionare su questa frontiera che ancora esiste tra conosciuto e sconosciuto, tra mondo e quello che non è ancora mondo, che la speleologia frequenta, e anzi che solo la speleologia frequenta, perché il nostro pianeta è tutto mappato, è tutto conosciuto tranne appunto il sotterraneo. Quindi questa frontiera mi ha affascinato, e partecipando a un campo speleologico sul Pollino, per l'appunto, nel 2016, sempre grazie a Nino, incontro Giulio Geckele, ex speleologo veterano di 83 anni allora, e che era l'uomo di punta di questa esplorazione avvenuta nel 1961 da parte di speleologi del nord, giovanissimi ragazzi principalmente di Torino, ma anche di Milano, Trieste, di Genova, che vennero a esplorare in pieno boom economico, no? Facendo una sorta di contro movimento rispetto a quello che tutto il sud stava seguendo in quel momento, no? Il sud saliva in cerca di fortuna, e su un treno invece che scende, ovviamente un treno vuoto perché nessuno prendeva la direzione opposta, questi ragazzi scendono, raggiungono il Pollino e trovano questa spaccatura nel terreno e la esplorano, finendo per esplorare quella che allora era la seconda / terza grotta più profonda al mondo. Ecco, incontrando Giulio in quel campo, ormai 82enne, scopro questa vicenda e capisco che la frontiera che già mi interessa, tra luce e buio, tra mondo e informe, può diventare ancora più forte, insomma può esplodere con un racconto ambientato nel 61, perché sono anni in cui si cerca la luce, stanno nascendo nuove visibilità, e quindi quella vicenda amplificava la frontiera in maniera particolare. Dal suono di quel sasso all'immergerti nel sottosuolo, che impressioni ti ha lasciato tutto questo? La prima discesa con Nino, dopo qualche esercizio fatto su parete, insomma senza rischi, con il drago e corde, tieni conto che io ho dei trascorsi sportivi in gioventù, però rispetto alla verticale, rispetto all'altezza, io qualche timore l'ho sempre avuto, quindi quando alla fine mi sono convinto, insomma, che bisognava fare questa esperienza, appunto attorno al 2016, ho imparato a usare l'imbrago, le corde, i discensori, e quindi c'è arrivato il primo giorno che mi sono calato nel pozzo, e devo confessarlo, ecco, io ho avuto una gran paura, e questa cosa è perdurata, io ho avuto paura per mesi, e questa paura in realtà mi ha convinto, insomma, che questo progetto volevo fare veramente, no? Perché quando hai una gran paura, sei convinto che la corda si spezzerà da un momento all'altro, e comunque, nonostante questa gran paura, ti ostini a esplorare questo set, insomma, per questo film futuro, ti sembra che, insomma, ne valga veramente la pena, che c'è davvero una voce che chiama a realizzare questo progetto. Quindi, con molta paura all'inizio, una paura che mi ha abbandonato solo dopo un anno di esercizi, di sopralluoghi, perché il tempo è stato, insomma, molto lungo, il tempo richiesto a questo progetto, ho cominciato a trovare la serenità che poi sarebbe stata necessaria per girarlo. In quante sale? Io so che questa settimana c'è un'uscita nei Capitona, quindi so che esce a Milano, a Roma, a Napoli, a Bologna, a Firenze sicuramente, e quindi io penso siano una quindicina di sale, insomma, ma poi a partire dal 30 uscirà anche nelle altre città, so che uscirà in Calabria, uscirà anche in altre, insomma, in altre cittadine. Non ho il polso precisissimo, ma una quindicina di sale la prima settimana. Il film Il Buco al cinema da giovedì 23 settembre 2021. Saluto e un ringraziamento al regista Michelangelo Frammartino. A presto! Grazie mille Federico e grazie agli ascoltatori. Con Luigi D'Alife di OpenDDB, distribuzioni dal basso, per presentare il film The End Will Be Spectacular al cinema dal 15 settembre 2021. Ben trovato. Ciao, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Partiamo dal progetto complessivo. Raccontaci un po' di questo approdo alla sala. OpenDDB Distribuzioni dal Basso nasce ormai 8 anni fa come piattaforma on demand di contenuti soprattutto film e documentari, ma non solo. Nel corso di questi anni, insomma, siamo riusciti a distribuire appunto decine e decine di film indipendenti, ma sono anche anni che continuiamo a distribuire in sala e non solo, in quelli che sono tutti gli spazi cinematografici, alcuni titoli, in particolare, insomma, i titoli prodotti come SMK Factory. Abbiamo però creduto fosse necessario provare ad alzare l'asticella, provare a darsi come obiettivo quello di riuscire a portare ancora più cinema documentario indipendente all'interno delle sale cinematografiche, per portare, insomma, delle storie che evidentemente sentiamo vicino e su cui, insomma, crediamo sia necessario provare una diffusione il più capillare possibile. Da qui nasce, insomma, appunto una progettualità che ci siamo dati a partire da questo autunno con il lancio di The End Will Be Spectacular, come dicevi tu, ma contemporaneamente, insomma, di altri due titoli che usciranno il 15 ottobre e il 15 novembre, che sono rispettivamente L'Incorreggibile, che è un documentario che racconta di carcere, ma lo fa in una maniera, io credo, davvero particolare, a partire dalla storia di Alberto, che ha vissuto gli ultimi 50 anni in carcere e si trova, insomma, a confrontarsi con quella che è un'uscita e un ritorno ad un mondo che non gli appartiene più. E poi dal 15 novembre sarà in sala Exbet, Resisti, che racconta invece la storia di alcuni attivisti e attiviste che hanno portato avanti praticamente 10 anni fa la rivoluzione di Piazza Tahrir, per ripercorrere, insomma, quel filo lungo 10 anni che ha visto quel processo rivoluzionario diventare purtroppo, insomma, un processo di repressione da parte del governo egiziano, e quindi importante raccontare quelle storie e capire che fine hanno fatto quei rivoluzionari. Questo è un po' quello che abbiamo voluto portare nei cinema, e non solo, perché poi naturalmente la distribuzione di questi film verrà aperta anche a tutti quegli spazi sociali, quei circoli e quelle associazioni che rappresentano la rete che OpenDDB, insomma, conosce e sostiene da anni. 3 storie quindi che parlano di resistenza curda, che parlano di carcere, che parlano di rivoluzione e di repressione, che appunto abbiamo sentito la necessità di portare nelle sale non ultimo in una fase storica decisamente molto molto complicata per la distribuzione cinematografica nel suo insieme, figuriamoci per la distribuzione indipendenti, insomma abbiamo visto benissimo tutti e tutte quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo a causa della pandemia, di come la chiusura e di come soprattutto io credo gli spazi culturali, cinema, teatri e così via siano stati i primi luoghi a essere colpiti dai lockdown, ma anche quei luoghi relegati a un ruolo esclusivamente di svalo, quindi molto svilente per quello che invece è il ruolo culturale di questi luoghi. E non ultimo, insomma, stiamo anche constatando, stiamo anche misurando noi che l'impatto ad esempio del Green Pass per quanto riguarda le sale, che sicuramente andrà capito meglio nei prossimi tempi, ma in generale c'è una situazione molto molto complicata in cui le sale stanno insomma patendo molto, i film stanno patendo molto, ma speriamo, insomma ci auguriamo anche con il sostegno delle tante persone che ci stanno vicino di poter invertire questa tendenza. Ci concentriamo sul primo titolo? Vi racconto di questo film, lo faccio molto volentieri perché in realtà è un film che avremmo voluto distribuire lo scorso autunno, ma che appunto a causa del nuovo lockdown e della chiusura dei cinema abbiamo dovuto rimandare. The End Will Be Spectacular è un film che va a raccontare quanto accaduto nel quartiere di Sur a Diyarbakir, quindi stiamo parlando del Kurdistan Bakur, il cosiddetto Kurdistan turco, il sud-est della Turchia. Nel 2015, dopo le elezioni del 7 giugno 2015, si è aperta una fase totalmente nuova, è stato interrotto il processo di pace, ma soprattutto è iniziata una vera campagna di guerra che ha riguardato centinaia di città e di villaggi in tutto il sud-est della Turchia, dove è stato applicato il coprifuoco, una vera e propria tattica di guerra, con invasioni delle città, con combattimenti, con bombardamenti, con una totale violazione di quelli che sono i diritti umani più basilari. All'interno insomma di questo contesto, la resistenza del quartiere di Sur di Diyarbakir io credo rappresenti una delle pagine di resistenza più importanti del tempo che viviamo, e per questo abbiamo deciso di provare a portare questa storia in Italia. Anche perché anche il processo produttivo di questo film è davvero molto particolare. Intanto è un film prodotto dalla Comune del Film del Rojava, un collettivo di cineasti nato appunto nel Rojava, nel nord-est della Siria, il 14 luglio del 2015, per riorganizzare le strutture cinematografiche sia produttive ma anche distributive nel nord-est della Siria e per raccontare delle storie di resistenza. Un film che appunto racconta di una storia che si svolge a Diyarbakir, ma il film è stato completamente girato a Kobane, insomma quella città che abbiamo imparato a conoscere per la storica resistenza contro l'ISIS, e lì insomma sono stati ricostruiti tutti i set, sono stati praticamente interamente costruite alcune zone della città, e tutto questo è stato fatto dal basso con un prodotto cinematografico di altissimo livello, e dove all'interno di questa storia, che è una storia già di per sé incredibile e molto forte, si vanno a sommare altre storie che sono quelle degli attori che impersonificano i vari combattenti, e mi va di citarne una su tutti, la storia di Rubar Shervan, che nel film impersonifica il personaggio del comandante Jaeger. Tutti gli attori che sono stati coinvolti in questo film non sono in realtà attori professionisti, ma sono in gran parte dei combattenti veri e propri, e Rubar Shervan appunto è un guerrigliero del PKK che ha fatto questo ruolo, che poi è venuto a mancare, è caduto da martire nell'ottobre del 2019 sotto un bombardamento turco. Io credo che in qualche modo anche questo possa stare a raccontare molto bene il portato emotivo di resistenza, di rivoluzionario che è questo film, un film di fiction ma con tantissima realtà dentro. Ti lasci tutti i riferimenti web? Potete trovare tutte le date previste in calendario per le prossime proiezioni sul sito di OpenDDB, quindi opendb.it, nella sezione in sala autunno 2021. Li aggiorniamo appunto su tutto, vi segnalo anche sul blog di OpenDDB se volete leggere appunto la storia che vi stavo brevemente raccontando, quella di Rubar Shervan, e sicuramente vi consiglio anche di seguirci sulle nostre pagine social, su Facebook, su Instagram, insomma cercate OpenDDB. Noi appunto stiamo continuando a raccontare quello che facciamo, continueremo a raccontare di questi film, ma soprattutto insomma ci auguriamo di incontrarci e di incontrarvi in sala nelle prossime settimane. The End Will Be Spectacular al cinema dal 15 settembre 2021. Saluto e un ringraziamento a Luigi Dalife di OpenDDB Distribuzioni dal Basso. A presto! Grazie, a presto, un saluto a tutti e tutte. Con Michele Aiello, regista del documentario Io Resto, al cinema da giovedì 23 settembre 2021. Ben trovato.

che hanno in qualche modo come tema predominante l'argomento della musica, che poi è storicamente sempre stato molto interessante, ma noi non ci limitiamo al discorso delle colonne sonore, ma entriamo proprio nel cuore della musica come elemento strutturale o della storia o dell'atto cinema, insomma. Questo ci permette, come dire, di andare a 360 gradi e cercare film dalle fiction ai documentari da tutto il mondo in anteprima nazionale, nella speranza di portare un nuovo argomento, una nuova visione del cinema ai nostri spettatori. Come si caratterizza l'edizione di quest'anno? L'edizione di quest'anno, ovviamente, siamo in presenza, saremo anche con una parte online. Siamo in sicurezza, purtroppo la coda che in questi anni mancherà, lo dico, parto subito dalle note dolenti, sono gli ospiti stranieri per, anche quest'anno hanno problemi a venire perché non sappiamo mai di preciso come sono le normative, però ci divertiremo partendo da quelle che sono, da quella che è la nostra caratteristica principale, se volete un po' il fiore all'occhiello, che sono gli eventi satelliti, cioè le sonorizzazioni di film, di grandi film muti eseguite dal vivo da band contemporanee. E partiremo appunto con, ripescando alcune chicche fantastiche, tra cui due sonorizzazioni che abbiamo espressamente commissionato noi, che quindi saranno in anteprima, che sono il grande film del regista armeno Sergei Parajanov, Fil colore del melagrano, poesia lirica, che però verrà musicata da ensemble composto da Bruno Dorella, Stefania Pedretti e Giovanni Lamu. Per chi conosce, magari il loro duo di riferimento sono Tiresia, Iovo, quindi una performance che dentro un film molto lirico si scatenerà sicuramente con elementi anche post-punk. Mentre chiuderemo il festival il 2 ottobre con il grande classico, il Dracula, quello di Bela Lugosi, con Bela Lugosi diretto da Todd Browning, quindi l'icona del vampiro per eccellenza, con una sonorizzazione composta per noi da Massimo Zamboni, ex, immagino che sappiate tutti, ex CCCP, ex CSI e adesso grande solista nella sua trentennale carriera musicale. Proseguiremo sempre con sonorizzazioni, portiamo il Metropolis di Fritz Lang, portiamo l'uomo con la macchina da presa di Giga Vertov, musicato da Paolo Spaccamonti e Stefano Piglia. Portiamo i cortometraggi di avanguardia di Stan Brakhage, sempre sonorizzati dal vivo, stile DJ set da Gianluca Giazzaguerra di Trieste. E poi ci allarghiamo, ovviamente, con quello che è il nucleo grosso del festival, che è il concorso internazionale per lungometraggi. Avremo 11 film da 10 nazioni. Spazieremo dalla repressione del punk in Ungheria durante gli anni del comunismo, attraverseremo l'horror, horror vero con vampiri, dall'America, My Heart Can't Beat Unless You Tell It, per poi arrivare anche a situazioni di noir di Gemelle in Fuga, molto linciano, un film che si chiama Superior. Abbiamo un iraniano fantastico sul dramma del potere di una donna il cui marito viene innocente, viene condannato a morte in Iran, Ballata di una mucca bianca, Ballad of a White Cow, un fantastico documentario sulle origini dei talk, in cui c'è questa specie di cercando i talk in questo alone di mistero dopo 30 anni, una Silent Way. Passando anche attraverso un altro documentario, Sisters with Transistors, dedicato alle musiciste donne della musica elettronica contemporanea, e spaziando poi per drammi di guerra ambientati nella Siria contemporanea, e un noir marocchino fantastico, sembra un Casablanca calibro 9, si chiama Zanka Contact, e così insomma, grandi film dal concorso internazionale, vi dico, dagli Stati Uniti alla Francia, al Libano, all'Iran, all'Ungheria, ma non spaventatevi perché so che a volte le nazioni fanno pure, ma sono veramente fantastici. E in ultima istanza concludiamo il festival, come dire, portando una nuova sezione, noi siamo di Ravenna, quindi siamo in Emilia Romagna, in collaborazione con la Film Commission dell'Emilia Romagna, inauguriamo quella che abbiamo chiamato la Soundscreen Era, cioè una session dedicata ai film prodotti e girati in Emilia Romagna da registi emiliano-romagnoli. Non sono film in anteprima, però avremo un omaggio a Raul Caradei, al compianto Raul Caradei, con un documentario sulla sua vita, Passeremo a un altro documentario su Michael Putland, il fotografo del rock, e poi presentare con registi in sala Est, Dittatura Last Minute, il film con Lodo Guenzi e Matteo Gatta, di Antonio Piso, e We Are the Thousand, il documentario di Anita Rivaroli, sull'evento che ci fu a Cesena dedicato ai Foo Fighters, anche qui con ospite la regista Anita Rivaroli. Questa è la struttura del festival. Avremo, noi vi vogliamo in presenza, però per chi non può venire a Ravenna, sono previste le repliche del concorso lungometraggi sulla piattaforma OpenDDB. Se andate sul nostro sito trovate tutto, soundscreen.org. Sesta edizione del Soundscreen Film Festival a Ravenna, al Palazzo del Cinema e dei Congressi, dal 25 settembre al 2 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Albert Bucci. A presto! E io ringrazio te, Federico, e di nuovo tutti coloro che ci ascoltano. Grazie. Con Elisa Coco, una delle curatrici, per presentare la 13ª edizione di Sempre per Cake, Bologna Lesbian Film Festival, al nuovo cinema Nosadella dal 24 al 26 settembre e su OpenDDB online dal 27 settembre al 3 ottobre 2021. Ben trovata! Ciao, ciao Federico, ben trovate, ben trovati a tutti quelli che ci ascoltano. Come sempre raccontiamolo a chi non lo conosce. Sempre per Cake è un festival di cinema lesbico che propone film appunto a tematica lesbica e anche femminista, quindi ovviamente il nostro focus è quella, la nostra passione, da dove siamo nate, però ci interessa un po' presentare i lavori che secondo racconto anche tutta la parte di movimenti politici femministi, insomma che sono la nostra vocazione politica, da dove veniamo. E quindi questa nasce 15 anni fa, siamo alla 13ª edizione perché abbiamo avuto insomma uno stop di 2 anni quando la creatrice del festival, direttrice artistica, insomma per i primi anni, Luchi Massa, che ha avuto una brutta malattia, il festival l'avevamo sospeso, poi lui è morta e noi abbiamo deciso di proseguire il suo lavoro, di creare un'associazione che portasse il suo nome e di continuare appunto questo festival che lei aveva immaginato, creato con una passione veramente enorme, quindi insomma per noi è ovviamente un progetto culturale ma è molto anche un progetto di politica culturale, quindi la nostra concezione è l'idea di poter contribuire a far circolare degli immaginari importanti attraverso il cinema, questa è la passione del festival. Quante opere presentate in questa edizione e come si caratterizza? Quest'anno abbiamo 25 film tra lungo e cortometraggi, ovviamente fiction, documentari, più spostato diciamo sul versante documentario quest'anno, un po' per questioni legate alle dinamiche produttive e distributive, un po' perché la dimensione del documentario ovviamente rispetto a un cinema politico come il nostro è quella che in qualche modo dà più spazio e anche più sostenibile forse. Da un punto di vista di risorse. Abbiamo anche un bello spazio dedicato ai cortometraggi che sono diciamo, una nostra grande passione da sempre, per cui ci sono 2 slot dedicati ai cortometraggi, nella mattina del sabato e nella mattina della domenica, e avremo anche una sezione invece di ospitalità di corti che vengono dalla Palestina, dal Festival Shashat, un festival con cui quest'anno appunto abbiamo attivato una partnership e abbiamo deciso di creare una piccola vetrina di loro produzioni, di registi palestinesi, perché ci interessava aprire una finestra appunto sulla resistenza delle donne palestinesi in un momento in cui sappiamo ci sono tante emergenze, ma quella palestinese è una questione che rimane sempre aperta. Tra l'altro abbiamo anche cercato di coinvolgere una regista, ma insomma come potete immaginare uscire dalla Palestina è veramente molto difficile, quindi non ci siamo riuscite insomma. E poi ovviamente avremo appunto alcune fiction che presentiamo, in particolar modo vorrei citare un film, un biopic di Tori Hanson, che è un personaggio insomma che a me piace molto, abbiamo già dato una un film che era in questo documentario dedicato all'ultima fase della sua vita, invece in questo caso abbiamo una fiction dedicata alla sua giovinezza, di pittrice, illustratrice, molto fuori dagli schemi, e appunto dopo insomma una prima relazione aperta con un uomo sposato, tra l'altro quindi un po' scandalosa al tempo, inizia diciamo il suo percorso di desiderio lesbico, quindi la pellicola racconta questo momento qui e insomma, siamo molto felici di ospitare questo film, perché appunto è un personaggio che avevamo già ospitato anni fa con la mostra dedicata ai Moomin, che sono le sue creature che insomma, sicuramente chi ti ascolta insomma, conoscerà, perché sono sulla cresta dell'onda da decenni ormai. E poi invece per citare qualche altro film, volevo dare un po' di visibilità all'unico film italiano che abbiamo in programma, che è Il terribile inganno, che è un film della regista Maria Arena dedicato al movimento Nuna di Meno, un documentario insomma che racconta un po' la nascita e il percorso appunto in Nuna di Meno, in particolar modo Milano, che è la città dove la regista vive, ma con alcuni momenti insomma di racconto anche degli incontri nazionali, tra l'altro dove molti di noi erano anche presenti, quindi come detto anche un valore affettivo che si lega a questo film, perché è un percorso a cui abbiamo partecipato, quindi insomma siamo felici che sia stato realizzato questo progetto per raccontare questa esperienza anche a chi magari non fa parte del movimento. Poi volevo citare anche Generation, che invece è un ritorno di Monica Troit, che è una regista lesbica insomma, che lavora da tanti anni, che non amiamo molto, che aveva realizzato 20 anni fa il documentario Gender Naut, e appunto quest'anno ha fatto uscire questo lavoro che è la continuazione di Gender Naut 20 anni dopo, quindi rincontra le stesse protagoniste di allora pensando che cosa è successo in questi 20 anni, quindi di figure appunto che rompevano gli schemi di genere e che hanno continuato a romperli per tutto questo tempo, quindi insomma è molto interessante anche questo progetto qui. E poi sicuramente dobbiamo citare Rebel Dice, perché è quello che ci ha dato un po' il filone quest'anno, sia dell'immagine che abbiamo scelto, un po' che del mood che abbiamo portato avanti, quindi quello delle lesbiche ribelli, delle donne ribelli, delle figure anticonvenzionali. Quindi c'è un documentario inglese che racconta la scena lesbica post-punk a Londra ed è veramente molto molto interessante. Cito l'ultimo film, che anche questo è un documentario di cui si attendeva con trepidazione l'anteprima in Italia negli ambiti di movimento, che è il film con cui apriamo, Female Eyaculation, un film di una regista tedesca, Julia Ostertag, che racconta appunto l'eiaculazione femminile, questo grande mistero di cui poco si parla, con più che altro anche tutti i percorsi politici, riflessione pratica sulla sessualità femminile come forma anche proprio di lotta politica, di liberazione. E sono presenti anche delle attiviste italiane all'inaugurazione insomma del festival, la prima proiezione, non è proprio l'inaugurazione, la prima proiezione, sarà presente anche Valentine Julia Wolf, che è un'attivista post-porno italiana di Torino, una compagna che si occupa di questi temi e che compare anche all'interno del film, ha partecipato appunto alla fase insomma di prese, di interviste, e quindi insomma potrà anche rispondere un po' alle domande del pubblico. Un'edizione in presenza e online con qualche differenza? Noi siamo felicissime di essere tornate in presenza, perché penso che l'esperienza dei festival lo sia un po' per tutti i festival, è un'esperienza che ha molto a che fare con la compresenza dei corpi, anche vedere un film al cinema insieme è un'esperienza completamente diversa da vedere un film in streaming su uno schermo, no? Quindi ecco, il tornare in presenza per noi è una cosa importantissima, poi il nostro è un festival di comunità, un momento di incontro per la comunità lesbica e femminista in Italia, ci sono donne che verranno veramente da le parti d'Italia, ho sentito compagne dalla Sardegna, da Trieste, da Firenze, da Roma, da Milano, insomma sarà veramente un momento di incontro, quindi ecco siamo veramente felici di tornare in presenza, però ecco la pratica dell'online per cui abbiamo dovuto in qualche modo allenarci, no, durante questo periodo di pandemia, ci ha fatto capire che una buona pratica di accessibilità è quella di comunque tenere disponibili dei contenuti online, perché ci sono molte che comunque per vari motivi

nazionale. Gli abbiamo chiesto, insomma, se gli piaceva l'idea di una collaborazione e quindi avremo il contest nazionale migliori beatboxers italiani, di cui abbiamo anche scoperto, lavorando insieme con Italian Beatbox Family, che la comunità più grossa d'Italia è proprio a Roma e nasce proprio nelle periferie di Roma. Quest'anno siamo alla seconda edizione. L'anno scorso è andata molto bene, ovviamente cambia perché c'è il coronavirus. Da una parte manca l'intrattenimento, quello puro, del ballo, dall'altra parte manca una cosa che, sono sincero, è un pochino snaturata. Una volta prenotavi per un turno, cioè prenotavi alle 8 la tua cuffia, poi arrivavi e decidevi cosa fare. Cioè, già in comunicazione passava alle persone questa cosa, sapevano che c'era un'offerta culturale variegata, perciò quasi neanche si soffermavano a guardare, capivano che era una cosa bizzarra, decidevano di venire e poi là decidevano se fare il teatro, se fare il concertino, se semplicemente mettersi la cuffia in testa, ascoltare un audio documentario e farsi un giro per il posto, e quindi decidevano lì. Adesso c'è una prenotazione di mezzo, però c'è sempre quelli che sono i due cardini principali, che sono l'attrazione di nuovi pubblici grazie a un'offerta culturale a 360 gradi e la coesistenza degli eventi. Ciò che stiamo aggiungendo anno dopo anno è un'attenzione sempre più grossa a quelli che sono gli impatti ambientali. Anticipo che il nostro festival, nel suo piccolo, la giornata in cui consuma più di tutte, consuma tanto quanto una casa, ovvero 3 kilowatt, 3 kilowatt e mezzo all'ora. Per fare un esempio, l'evento di preapertura che abbiamo portato in scena mercoledì 15 a Piazza della Balena, nel cuore di San Basilio, è stato realizzato completamente a batteria e completamente con l'utilizzo di luci con batteria integrata e batterie a litio esterne. Siamo riusciti a coinvolgere un pubblico eterogeneo in una programmazione di sport, cinema e teatro. È una cosa a cui crediamo molto, anche perché quello che è l'impatto ambientale non passa solo esclusivamente per un fattore energetico, ma passa anche per un inquinamento acustico che, utilizzando cuffia, diventa praticamente pari a zero, e passa anche per un inquinamento che io chiamo visivo. Il nostro è un festival diffuso, quindi un festival fatto di diverse aree nate per ospitare un numero limitato di spettatori in contemporanea. Di conseguenza non abbiamo bisogno di grandi strutture importanti. Quindi nel suo piccolo è un festival a impatto ambientale molto molto basso, che nasce appunto anche proprio da quella che è l'esperienza che abbiamo in Sardegna. In Sardegna portiamo un festival gemello. Anticipo che abbiamo in programma l'anno prossimo realizzare un'edizione completamente utilizzando energia solare. E anticipo anche, non che creda che le batterie al litio miglioreranno il mondo e siano la miglior cosa che esista, più green a impatto, no, ma semplicemente anche per mostrare, come dire, guarda, come noi l'anno prossimo, immaginando numeri in contemporanea più alti, sperando di essere usciti dal coronavirus, riusciremo a coinvolgere di nuovo 500 persone in contemporanea come ai vecchi tempi. Ok, l'abbiamo fatto utilizzando qualche pannello e delle batterie, perciò giusto come dire, guarda, se ce l'abbiamo fatta noi, ce la facciamo tutti. Quanti eventi e quali orari? Il festival inizia ogni giorno alle 5 del pomeriggio con il primo turno degli spettacoli per ragazzi, segue alle 6 l'incontro con lo scrittore e segue la programmazione serale di cinema e di teatro ragazzi. Gli orari di intervento sono dalle 5 del pomeriggio fino alle 11 di sera, salvo la serata della beatbox, dove andremo avanti un pochino di più. E gli eventi che proponiamo, presi singolarmente, sono oltre 50, nel senso mettendo insieme tutte le repliche degli spettacoli che facciamo e delle attività. Seconda edizione del Silent Room Festival a Villa Farinacci a Roma dal 15 al 26 settembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Michele Moi. A presto! A presto e grazie infinite. Vi aspettiamo. Prenota gratuitamente su www.silentroomfestival.it. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.